Globetrotter 24 di Annarita D'Ambrosio e Valeria De Rosa. Ben ritrovati ai nostri ascoltatori, ancora un appuntamento con Globetrotter 24. Buon pomeriggio Valeria. Buon pomeriggio Annarita, a te e ai nostri ascoltatori. Allora, innanzitutto il nostro menù, il tradizionale menù della puntata, con i nostri titoli. All'estero andiamo a Tampere, città piccola, ma qui c'è tutta la vera Finlandia. In Italia la provincia nissena, Butera, gela il castello di Falconara, alla Sicilia texana che non ti aspetti. Centro a chilometro zero, Santo Stefano di Sessanio, alla scoperta del Parco Nazionale del Gran Sasso. Nord a chilometro zero, alle porte di Trieste, a 5 chilometri dal centro, la risiera di San Sabba, per non dimenticare. Stiamo ascoltando è un compositore finlandese vissuto a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, Jean Sibelius. Perché questa settimana ti riporto al freddo, molto freddo d'inverno, temperato, così dicono, d'estate, anche se per me, per quanto mi riguarda, è ancora troppo fredda come estate. Ti porto in Finlandia, ma non a Helsinki perché sarebbe troppo facile, ti porto a Tampere, più a nord di Helsinki, dove comunque c'è una piccola comunità di italiani. Mi sono messa sulle loro tracce attraverso il sito circoloitaliano.fi e mi sono imbattuta in Elisabetta Gaglione. Elisabetta vive a Tampere, intanto raccontaci come sei finita lì. Ciao Valeria, allora prima di tutto Tampere, quindi l'accento va proprio all'inizio. E niente, io sono arrivata a Tampere nel 2004 e niente, volevo fare un'esperienza all'estero con il mio vecchio fidanzato. Siamo sempre stati innamorati dei paesi nordici e poi siamo finiti qua. Insomma, non dico per sbaglio, ma non era un progetto estremamente preparato nei minimi dettagli, ecco. E dopo essere stata ripresa sulla pronuncia di Tampere, giustamente, perché è giusto così, uno deve imparare da quello che ascolta, da quello che sente. E adesso cosa fai a Tampere? Allora, io al momento, niente, mi sono laureata un po' di anni fa e al momento lavoro per una ditta di energia solare. E insegno anche italiano, faccio dei corsi serali per persone adulte e bambini. E se uno dovesse decidere di venire a Tampere, secondo te perché? Qual è la motivazione principale che dovrebbe spingere una persona a venire a visitare Tampere? Io sono di Genova, quindi è una città abbastanza grande, insomma anche relativamente caotica. Tampere è una città proprio a misura d'uomo, molto, molto tranquilla, che però è capace di offrire tutto quello, insomma, che serve, ecco. Se ci vivi, ovviamente ci sono determinate necessità. Se vieni come turista, se stai qua una settimana, puoi veramente capire com'è la vita finlandese e veramente goderti, ad esempio, la natura, una natura veramente pulita, una città tranquilla, però divertente allo stesso tempo, un sacco di musei. Insomma, è una città, ecco, a misura d'uomo, che va soprattutto bene anche ad esempio per famiglie o anche per persone che vogliono, ad esempio, non lo so, viaggiare da sole, ecco. Non è assolutamente improbabile o infattibile fare un viaggio a Tampere da sole. Senti Elisabetta, se tu dovessi scegliere tre cose di Tampere da vedere assolutamente, che cosa ci racconteresti? Allora, tre cose, posso dirti quello che faccio fare, che faccio normalmente io quando vengono i miei amici a trovarmi. Innanzitutto c'è questa torre di Pyynikki, praticamente se si sale sopra si vede praticamente tutta Tampere dall'alto, tra foresta, i laghi, quindi il panorama è estremamente bello. E poi il piano terra di questa torre c'è una specie di caffetteria dove fanno i bomboloni più buoni della città, quindi devo decisamente ammettere che quello è sicuramente una delle mete preferite, dove io stessa poi vado molto spesso e dove porto sempre i miei amici. Un altro posto che adoro è Kauppahalli, che praticamente è una specie di mercato coperto dove praticamente dentro trovi qualsiasi genere di prodotto finlandese e non, e anche molte specialità tipiche proprio della zona. E poi come terzo posto Non lo so, semplicemente prendere la bicicletta oppure andare per funghi e avventurarsi un po' nella foresta, fare un giro di un lago, insomma cose estremamente finlandesi, e magari la sera farsi una sauna e poi un bagno nel lago, ecco. Prima di capire un po' meglio che cosa offre per, ad esempio, per i bambini una città come Tampere, perché insomma questo poi è un po' il regno di Babbo Natale, io vorrei capire un po' anche la vita notturna, cioè Tampere è comunque una città dove ci si può divertire, dove per i giovani c'è da fare oppure no? Sì, allora è una città adatta anche per famiglie, però insomma se si è giovani sui 20, 25, 30 anni ci sono tantissime opportunità appunto anche per le persone più giovani. Insomma, quando ero universitaria un po' di anni fa mi piaceva andare ad esempio nei pub, nei locali, ce ne sono alcuni anche abbastanza famosi e insomma proprio tipici finlandesi dove insomma puoi bere tranquillamente, c'è anche musica dal vivo e così via. Poi abbiamo alcune discoteche e poi insomma dipende anche, perché se uno viene d'inverno qua insomma può anche fare freddo tipo meno 30, se uno viene d'estate c'è praticamente il sole quasi tutto il giorno e molti giovani qua ad esempio d'estate si prendono una birra e poi si siedono in un parco e prendono una chitarra, suonano e stanno fuori insieme. Ecco, io proprio sul clima volevo chiederti qualcosa di più preciso, perché dovendo scegliere un po' mi metterebbe in difficoltà la temperatura troppo rigida. Sì, guarda, questa è una cosa che spesso i miei amici quando mi vengono a trovare me lo chiedono, ma come fai a meno 30, ma come fai a sopravvivere? Ma in realtà prima di tutto è una questione di abitudine, perché sicuramente i primi tempi sono tosti, poi uno piano piano si abitua e riesce anche proprio a gestirsi in modo tale da non sentire tutto quel freddo. È anche poi una questione di avere il giusto abbigliamento, di vestirsi a strati e avere sempre i piedi belli coperti al caldo e così via. È tanto questione di abitudine, posso dirti questo con estrema sicurezza, perché io sono estremamente freddolosa, all'inizio i meno 30 erano abbastanza pesanti e poi adesso niente, li gestisco insomma abbastanza bene. Ecco. Dicevamo è una città e forse anche un paese molto a misura di bambino. Sì, per quello sì, devo dire che ad esempio qua a Tampere conosco tante mamme finlandesi o italiane che sono appunto sposate o con finlandesi o con italiani, quindi di bambini io stessa ne conosco abbastanza tanti. È una città sì, fatta su misura per bambini, abbiamo diversi parchi dove i bambini possono andare a giocare, sono estremamente puliti, ben attrezzati, abbiamo diversi musei per bambini. Abbiamo un parco di divertimenti per bambini, Sarkaniemi, abbiamo insomma ci sono piste ciclabili ad esempio dove una mamma con il bambino in bicicletta può andarci tranquillamente. Un esempio che mi viene da menzionare è il fatto ad esempio che sull'autobus puoi andare tranquillamente con il passeggino, quindi muoverti con tuo figlio o più di un figlio insomma non è poi così complicato, ecco, a Genova sarebbe impensabile, invece qua è assolutamente fattibile, ecco. Tu pensi di rimanere lì? Ma al momento insomma tutto va bene, quindi sì, non ho in progetto di tornare a Genova, poi nella vita non si sa mai, però per ora sono qua, sono contenta, sono felice, ho un lavoro che mi piace, ho tanti amici. Elisabetta, da come ne parlavi ho immaginato, ho ipotizzato che comunque la comunità italiana sia abbastanza numerosa, quindi questo vuol dire che è un paese che per l'italiano anche viaggiatore, che in alcuni casi è un po' particolare, può andare bene? Guarda, qua a Tampere, per quello che so, siamo più o meno un centinaio di italiani registrati ufficialmente, poi ovviamente ci sono ad esempio gli studenti Erasmus e così via. Poi vabbè, Helsinki, la comunità italiana è ancora più grossa. A livello turistico io ho lavorato per Visit Tampere per quasi un anno e avevamo abbastanza insomma turisti italiani. Posso dirti che insomma a Tampere ci sono tante persone che parlano italiano, che amano l'italiano, che amano la cucina italiana, e molti servizi sono disponibili anche in italiano. Un italiano in viaggio qua e sono sicura che potrebbe avere una grande bella esperienza, ecco. Anche per la cucina, perché tu accennavi poco fa al mangiare e mi è venuto in mente che è una cosa che non ti ho chiesto. Per la cucina, secondo te, come ci troveremmo noi italiani? Allora, sì, questa è una domanda un po' ostica, come dire. Beh, la cucina finlandese non è ricca come la nostra, ed è inutile dire il contrario. Mangiano molto pesce, lo sanno cucinare veramente bene. Ad esempio qua a Tampere abbiamo questa mustamakkara, che è praticamente una salsiccia nera, che dall'aspetto non è proprio estremamente invitante, però insomma non è male, ecco. Anche in Finlandia ci sono dei piatti che vale la pena provare, ecco. Come del resto sempre bisognerebbe fare quando si va all'estero, provare sempre la cucina del luogo e mai portarsi qualcosa da casa. Grazie Elisabetta per averci raccontato Tampere. Grazie mille, ciao. Valeria, ma io sono stata a Tampere, molto carina, piccola piccola, però si visita in poco, poi c'è una natura molto bella, è bella. Però fa freddo. Sì, io sono stata, pensa, mi sembra fosse settembre e già, insomma, non era il nostro clima, dai. Però è sicuramente una meta ideale per le famiglie. Però un po' cara. Cara, sì, per essere molto, cara, molto sì, cara. Per essere cara, sì, è abbastanza cara. Beh, insomma, è la Finlandia. Però se uno ha pochi giorni a disposizione, addirittura consiglio di visitare più Tampere che non la stessa Helsinki, che comunque anche è molto bella e molto particolare. Quindi ci avevamo preso, in fondo, a Tampere c'è tutta la Finlandia che devi scoprire. Secondo me sì. Anna, con te torniamo in Italia. Credo che questa volta mi farai riflettere. Ti faccio riflettere e anche io ti porto in un posto freddo, freddo anche per l'anima. Ti porto nell'unico campo di sterminio realizzato dai nazisti in Italia, che è la risiera di San Sabba e che oggi è un museo della memoria, dopo essere stata tra l'inverno del 43 ed il marzo del 44 l'unico, ripeto, campo di sterminio italiano, un campo di transito in realtà. Qui hanno trovato la morte, pensa, tra le 4 e le 5.000 persone, erano oppositori politici, partigiani italiani, sloveni e croati. Ti porto qui perché è un luogo da visitare, sicuramente Trieste è una città bellissima e secondo me chiunque visita Trieste deve però obbligatoriamente passare a 5 km dal centro, nella risiera di San Sabba. A questo complesso si accede da un lungo e angoscioso corridoio di cemento, si possono visitare le strutture destinate ai prigionieri, le celle di isolamento, dove le pareti hanno ovviamente, come in tutti i campi di sterminio, i messaggi, i graffiti dei detenuti, ci sono le celle di tortura, c'è anche la cosiddetta cella della morte. Quando si dice che in Italia siamo stati solo toccati poco, non è vero, non perlomeno in tutta Italia. L'ingresso è gratuito ed è un luogo della memoria nella quale, secondo me, bisogna portare anche i bambini in un'età nella quale riescono a capire, perché forse farglielo capire da piccoli, non so cosa ne pensi. Sono assolutamente d'accordo con te e ci stavo pensando proprio mentre ce lo raccontavi. Primo perché Trieste è veramente una città bellissima e comunque spiegare ai bambini quello che è successo, anche in un modo, diciamo, più dolce, ma in modo tale che lo capiscano anche fin da più piccoli, è importante, perché poi i bambini chiedono ed è giusto che alle loro domande si diano delle risposte che ovviamente siano comprensibili per la loro età, però per ogni età c'è la modalità, c'è il modo per spiegare quello che è successo. Dal freddo della risiera di San Sabba, Valeria, ci fermiamo un po' e poi ti porto nel caldo della Sicilia. Globetrotter 24. La chimica è lo studio delle sostanze. Io mi chiamo Walter Arthur White, abito al 308 di Negra Royal Lane, Albuquerque, New Mexico. Vale. Valeria, questo è Breaking Bad, Reazioni Collaterali, la famosa serie televisiva statunitense. Non l'ho vista, però la devo vedere perché me ne parlano tutti. C'entra con la meta di oggi, con questa Sicilia che voglio raccontarti. Una Sicilia molto mia, perché tra l'altro ci ho vissuto qualche anno, ed è una Sicilia molto poco battuta dal turismo. Una Sicilia texana come quella raccontata da Orazio Labbate, 29 anni ma sembra anche molto più piccolo, geniale scrittore esordiente nel 2014 con il romanzo L'Oscuro della casa editrice laziale Tunuè, che in genere edita fumetti ma che ha deciso di puntare sui romanzi, però su un tipo speciale, Valeria, di romanzi che ai fumetti possiamo dire in qualche modo si possono paragonare per quanto sono descrittivi. L'Oscuro è un libro molto bello e racconta la provincia nissena e il percorso dove ti porto oggi e che consiglio ai nostri ascoltatori, consiglio anche di portare la famiglia, va da Butera a Gela a Caltanissetta. Prendi tutto quello che ho, crollami addosso, è quel che posso, è quel che mostro, è qualche mostro mi dirà che noi non ci avremo mai. Nel tuo romanzo tu parli di una Sicilia americana, una Sicilia texana. Tu sei nisseno, partiamo da Butera. Secondo te perché andrebbe visitata? Butera è la città dove non sono nato ma ho vissuto sin da quando ero piccolo. Sono nato a Mazzarino perché Butera non aveva un ospedale, ma i miei genitori sono di Butera. Butera la descrivo sia nel romanzo, rientra indipendentemente dal romanzo come mio territorio ideale dove trascorrere le vacanze, perché riesce a riunire due tipi di Sicilia che troviamo assente nelle altre zone: una Sicilia secca e desertica di ispirazione americana e una Sicilia imbevuta di mitologia greca e anche con reminiscenze eschilee, perché ricordiamo che Gela ha come suo custode Eschilo stesso. Butera è un paesino medievale in collina, ma è un paesino a circa 13 km dal mar Mediterraneo. È un paesino quindi che offre una dualità di esperienze, un'esperienza medievaleggiante e un'esperienza di carattere paesaggistico americano, con la strada che collega Butera a Gela, e poi l'ultima parte anche è una parte marittima di Butera, che è praticamente la zona di Falconara, dove risiede il castello di Falconara. Ne parliamo tra pochissimo, Orazio, perché quella è una zona che io conosco per esperienze di vita precedenti molto bene e devo dire che è una Sicilia talmente diversa che io non avevo accomunato, e questa secondo me è la tua grande genialità, di aver accumulato all'America, che invece poi ho visitato successivamente, che hai perfettamente ragione, sono effettivamente molto simili. C'è anche, che parte forse proprio da Butera, la strada del vino dei castelli nisseni, è vero? Sì, esatto, è una strada essenziale perché ti permette di rivivere in maniera profonda, in maniera anche essenzialmente reale, materica, tutta la zona dei vitigni, tutta la produzione che viene ad esservi nella provincia di Caltanissetta. Puoi anche avere la possibilità di recarti nella zona del feudo dei principi di Butera, da dove avviene praticamente dove viene commercializzato il vino principi di Butera. Io manco da tanti anni, tu poi hai fatto anche tu scelte di vita diverse, adesso sei a Milano, però c'è del turismo in questa zona, no? È poco battuta ancora? Sì, questa zona è ancora purtroppo poco battuta, questo è un dato purtroppo nuovamente reale, però è una zona che io credo abbia potenzialmente una possibilità turistica, di apertura turistica maggiore rispetto ad altre zone siciliane. Questa zona racchiude essenzialmente un fantastico, un immaginifico per il turista che altre zone siciliane non racchiudono, perché rientrano nella tipica fantasia di coloro che vedono la Sicilia in solamente belle spiagge o zone che hanno il barocco come il ragusano, o zone che hanno un'ispirazione filmica come la zona di Montalbano, sempre nella zona di Ragusa Ibla. La mia zona invece riesce a riunire un nuovo Messico tipico di Breaking Bad, è una zona anche americana, underground, tra praticamente il Texas di True Detective, anzi le zone del Mississippi di True Detective, è la struttura metallica che non distrugge la bellezza paesaggistica, che è quella del petrochimico di Gela, con il Mediterraneo. noi possiamo rivivere questa esperienza, sia un'esperienza di turismo essenziale, ma anche un'esperienza di turismo da pellicola americana. Senti, poi abbiamo parlato del mare, cioè il castello di Falconara è uno dei posti più belli che io abbia mai visto, cioè questo castello e questa baia piccola piccola con questo mare meraviglioso. Esatto, quella è una zona marittima, una spiaggia molto isolata, poco conosciuta, ma che regala, poiché vi è il contrasto tra il castello, la scogliera e la zona di mare in esteso, una perfetta giornata di mare mediterraneo, ma anche una suggestione letteraria che lascia senza parole, ecco. Hai citato Gela. Gela ha dei tesori, poi purtroppo è nota per il complesso petrolchimico dell'ENI, costruito proprio sul mare. Io sono napoletana, quindi anche a Bagnoli è stato costruito e sicuramente il mare non è più lo stesso di prima, ma era un gioiello e ci sono ancora dei gioielli a Gela. Esatto, ci sono ancora dei gioielli che vengono secondo me custoditi preziosamente nel Museo Archeologico di Gela. Questi gioielli sono gioielli sia di grecizzanti, quindi gioielli greci, sia gioielli mitologici e sia oltre ai gioielli mitologici anche gioielli paesaggistici. Se noi ci rechiamo verso la zona di Manfria, dove vi è la Torre di Manfria, che ha anche lì derivazioni leggendarie, riusciamo a trovare sia il mare Mediterraneo ma anche il mare dei tesori greci, delle antiche navi greche che riusciamo a sentire nuovamente se ci richiamo in quelle zone. Gela non è solamente il petrolchimico ENI di Gela, viene ricordata per questo, ma se studiamo storicamente Gela o, come dicevo precedentemente, riviviamo il territorio americanamente, quella zona vediamo che non ha nulla da invidiare al New Mexico o all'Albuquerque di Breaking Bad. Anche Caltanissetta merita una visita. Sì, sì, Caltanissetta, oltre al fatto che dobbiamo ricordare Sciascia stava anche a Caltanissetta, quindi vi è colui che ha partorito, uno di coloro che ha partorito la letteratura siciliana abbiamo a Caltanissetta, ma oltretutto abbiamo anche quelle piazze, come tu hai descritto perfettamente, dove i vecchi silenziosamente godono di quello scirocco e che ricordano pagine appunto di Leonardo Sciascia. Senti, abbiamo parlato dunque di una Sicilia sicuramente diversa e che segnaliamo, una Sicilia anche enogastronomicamente diversa. Per esempio, nella tua Butera si mangia la pasta con il miele, com'è possibile? A Butera si mangia la pasta con il miele perché è un'antica tradizione che è rivissuta durante la festa di San Giuseppe. Questa pasta è creata, plasmata dalle mani delle vecchie del paese ed era una pasta molto, chiamiamola rurale, una pasta da agricoltori che tornavano dalle campagne alla festa di San Giuseppe, mangiavano appunto questa pasta molto grezza che è fatta e costituita da pasta classica appunto, e abbiamo le briciole del pane frammischiate con il miele. Questo contrasto tra diciamo salato e dolce riesce a far rivivere il sorriso nei contadini quando tornano dal lavoro. Madonna, che voglia che ci hai fatto venire di visitare questi posti che tra l'altro, ricordiamolo Orazio, non sono per niente cari, è un posto molto economico. Esatto, è un posto assai economico e io anche comicamente ricordo che quando vado in Sicilia lì non funziona il tutto, il costo non viene riunito al chilogrammo ma viene riunito al sacchetto, un sacchetto di una esigua piccolezza ma che è pieno del frutta siciliana o di ciò che regala la Sicilia, ha dei costi veramente bassissimi, quindi è una zona turisticamente accessibile e tuttavia anche è una zona non solo turisticamente accessibile ma anche che prevede dei costi extra dei turisti assai economica. Sicuramente è una zona da visitare nel periodo di Pasqua perché ci sono delle cerimonie meravigliose e secondo te vogliamo consigliare quale aeroporto? Forse Catania? Sì, consigliamo l'aeroporto di Catania perché da lì è possibile accedere alla zona del rendoterra, quindi Butera, Gela e Caltanissetta, con un servizio di autobus frequente che si riesce ad avere davanti al porto, all'aeroporto Fontana Rossa. Tutto l'universo obbedisce all'amore, come puoi tenere nascosto un amore. Sicilia speciale in tutti i sensi, una Sicilia che tu hai visitato? L'ho visitata più volte, ti devo dire, e anche quelle zone lì in particolare. E la cosa che mi piace ricordare soprattutto è quell'area particolare che si crea dopo pranzo, quando fa molto caldo, quando questa luce del sole così forte batte sui palazzi e si crea un'atmosfera proprio unica. Con dei colori meravigliosi. Una Sicilia dunque che vi segnaliamo. Chilometro zero. Anna, io ti riporto al centro, ti porto in Abruzzo, a Santo Stefano di Sessanio. È un posto di cui si è molto parlato quando purtroppo nel 2009 il terremoto sconvolse parte di questa regione, che è una regione poco conosciuta, ma molto bella, soprattutto all'interno è davvero spettacolare. Santo Stefano di Sessanio è all'interno del Parco Nazionale del Gran Sasso, vicino ai Monti della Laga, è completamente costruito in pietra calcarea bianca e ha questa particolarità: le coperture delle case sono tutte realizzate con i coppi e questo conferisce una omogeneità che rende unico questo borgo. È dominato dalla Torre Medicea, è un reticolo di stradine selciati da percorrere ovviamente a piedi, appartengono al dominio dei Medici i loggiati, i portali disposti ad arco, le finestre in pietra tutte lavorate, le bifore, le mensole dei balconi, e sulla porta d'ingresso di sud-est svetta lo stemma della Signoria di Firenze, che appunto su queste montagne ha lasciato qualcosa di sé, della sua raffinatissima civiltà. Te lo consiglio anche perché la strada per arrivare è davvero meravigliosa e ovviamente, che te lo dico a fare, anche qui si mangia benissimo. Siamo arrivate anche questa volta ai saluti finali, quindi anche questa puntata è terminata, l'abbiamo portata a casa, non ci resta che salutare anche gli ascoltatori. Saluti e ringraziamenti, Valeria, ringraziamenti a chi ci ha seguito dall'altra parte del vetro, che è il nostro Carmelo Lauricella, e poi il nostro indirizzo mail globetrotter24@radio24.it, e mi raccomando scriveteci.